di Anni Viventi, Circe, il romanzo di Maria Tarnowska. 1. I verdi campi della Puglia roteavano davanti al treno fuggente. Il sole di marzo, così dolce all'aperto, entrava torrido e inesorabile per il finestrino e gravava sui polverosi cuscini di velluto rosso con ostinazione infocata. Io non vedevo la fuga del verde paesaggio primaverile. I miei occhi erano fissi su un quaderno che tenevo sulle ginocchia, un innocente quaderno scolastico destinato a contenere la stentata calligrafia di una mano puerile. Sul frontespizio un ornato azzurro rettangolare diceva orario delle lezioni e sotto, per ogni giorno della settimana, v'erano dei piccoli spazi: aritmetica, geografia, storia. Ahimè, a quale tetra scuola era andata la tragica alunna a cui questo quaderno apparteneva? Quale macabra lezione era questa, scritta dalla bianca mano patrizia che aveva conosciuto tante tiepide strette, tanto sfavillante carico di gemme ed ora anche la ferrea resistenza delle sbarre di una cella? Voltai la prima pagina e davanti a me vidi stesa, fitta e obliqua, la calligrafia acuminata, pallide righe tracciate a matita. Mi perdetti in quel sinistro manoscritto come in una landa di sogno. Ad ogni volger di foglio mi balzavano incontro superbi e signorili dei bei nomi slavi di principe, d'amante o d'assassino. In ogni linea sghignazzava la morte, ruggiva la passione e come dai flutti di un fantastico mare, un mare di morfina, di sangue e di champagne, ecco sorgere, novella Venere, trasognata e stupefacente, Maria Nikolaevna Tarnovskaya. Ingenua e attonita, ella comincia le sue memorie così. A 8 anni ebbi la rosolia e perdetti la vista. Portavo degli occhiali bleu, mia madre mi amava molto, anche mio padre, anche la servitù, tutti mi amavano molto. Ecco, mi addolora continuare la lettura. Vorrei fermarmi qui con la bambinetta che tutti amano e che attraverso gli occhiali bleu vede il mondo color di rosa. Ah, Maria Nikolaevna. Se i tuoi occhi fossero rimasti celati dietro quelle lenti crepuscolari, chi t'avrebbe oggi esecrata e maledetta? Ma a 12 anni l'oculista volle scoperte quelle iridi all'acquerello verde, quelle limpide pupille traslucenti che dovevano mirare il fondo di tanto nero abisso. Leggo, leggo e non mi so fermare. Le fitte pagine scritte nelle prigioni di Venezia appaiono dapprima vergate con forza nervosa, con qua e là cancellature energiche, con aspro sottolinear di nomi e date. Già sulle prime pagine campeggia baldo conquistatore il giovane Vasily Tarnovsky, fieramente bello, ferocemente egoista, dalla voce commovente come un violoncello, dai chiari occhi bagnati di luce, dalla fosca anima satura di vizi. Io avevo già 17 anni e mi credevo seria ed assennata, ma per quanto me lo dicessero tutti, io non potevo credere che Vasily fosse leggero, dissoluto, incostante. Mi innamorai della sua bellezza e del suo canto. E il 12 aprile, in una piccola chiesa della steppa, di nascosto lo sposai. Non credevo che si potesse essere tanto felici. E subito sulla pagina seguente troviamo la lista tremenda, incredibile, delle amanti che l'adolescente sposa gli discopre. Terminato il musicale elenco di nomi femminei che per lei suonano cupo dolore, ella osserva semplicemente: non sapevo che si potesse essere tanto infelici. Più in là vi sono lacune, stranezze, incoerenze, un fuggitivo fiorire di frasi a effetto. Maria Tarnowskaja oblia ad essere la tragica eroina di questo libro e ne diventa la passiva annotatrice. Terminata la cena, alla 1 di notte, mio marito abbracciò nuovamente il Bozevski, erano riconciliati. Bozevski poi baciò la mano a mia cugina e a me e ci accompagnò alla slitta. Mentre mi aiutava a montare, si udì una detonazione. Qualche cosa mi fischiò nei capelli e il Bozevski cadde ai miei piedi, spruzzando di sangue il mio mantello, l'abito e le scarpe. Mi chinai su di lui, udii mio marito esclamare con riso satanico: alla buon'ora! Il mio cavallo spaventato fuggì mordendo il morso. Chi fra noi a cui il sangue dell'amante assassinato spruzzasse la veste si accorgerebbe del cavallo che fugge mordendo il morso? Strana passeggera affettazione letteraria, subito riperduta e travolta nella voragine del dramma vissuto. Qua e là, in mezzo alla tragedia, una nota quasi comica, un umorismo improvviso e pazzesco ci sorprende, come uno schiaffo da clown in un duello a morte. Ricevetti allora in prigione l'annunzio che il Kamarowski era morto. Pregai il giudice di mandarmi un interprete. Mi fu chiamato un vecchio, il quale parlava un mixtum compositum fra il ceco e il russo. Oh, quel mixtum compositum! Ogni tanto, nel funebre racconto, come alla finestra d'una morgue si affaccia l'innocente viso d'un bambino. Tioca! Ride il piccolo biondo che non sa d'avere intorno a sé tanti lividi volti di morti. Corre coi piedini lesti traverso le pozze di sangue e stende le braccia verso il bianco petto contaminato da vigliacchi amanti, ma di cui egli non conosce che la candida materna dolcezza. Io leggo, leggo. Ma la scrittura si affievolisce, la mano, il cuore della rammemoratrice si stanca e il mesto manoscritto termina improvvisamente, tronco ed incompleto. Oh, se potessi mostrare tutte le lacrime che ho versato, se potessi descrivere tutti i dolori che ho sofferto, sono sicura che si avrebbe pietà di me. Nella mia povera esistenza mi fu negato il diritto di amare e di essere felice. Se la gente potesse immaginare quanta tristezza. Quanta sofferenza! Il mio treno rallenta, si ferma. Sono giunta a Trani. Tra poco vedrò davanti a me la donna che certo in cuor suo, come la nordica poetessa, dirà Edor, che Dio mi tolga la memoria. La suora mi disse, sta lavorando in giardino, ora la vado a cercare. E se ne andò. Tornò poco dopo, non più sola, indi. Sedette in disparte, mite e mansueta, con le mani in grembo e le palpebre abbassate. Di fronte a me stava colei che ero venuta a cercare, colei di cui tutti i letterati, gli avvocati, gli innamorati del mondo si sono occupati poco tempo fa, la donna contro la quale si sono accanite tutte le donne, Maria Tarnowskaja, la devastatrice, la furia, la Erinni. 2. Alta, immobile. Nella terribile veste a righe, ella mi fissava con lo sguardo fermo, fosco e ostile. Le mani le pendevano ai fianchi, quelle lunghe mani di cui la carezza aveva spinto gli uomini all'omicidio, la bocca arcuata e sdegnosa aveva un lieve tremito. Signora, cominciai. Ella ebbe un piccolo sorriso, accennando appena con un rapido abbassare delle ciglia alla sua veste infame. Signora, ripetei, non vengo per compassione né per curiosità. Ella non rispose, aspettava. Vengo a difendere presso di lei le donne che ella crede tutte cattive, tutte crudeli, tutte feroci. Un altro sorriso, un breve sorriso, vivido e intelligente, le lampeggiò negli occhi. Poi il sottile volto si richiuse e si rioscurò. Da 2 anni mi tormenta il pensiero che ella, chiusa qui dentro, debba dirsi che tutti gli uomini sono vili e tutte le donne spietate. Degli uomini non so, ma le donne non sono tutte spietate. Ella attese un poco, poi disse, e la sua voce era fievole e dolente, in nome di quante donne mi portate questo messaggio? Anch'io sorrisi. Siamo in quattro, dissi. 2 inglesi, una norvegese che è sordomuta ed io. La sordomuta è molto intelligente. Maria Tarnowskaja rise, fu una risata piana, piccola, irrefrenabile, e subito parve spaventata d'aver riso. La suora si volse, piena di mite e sbigottimento, ma per me la Tarnowskaja non era più la Erinni. Traverso la delinquente nel vestito d'infamia, traverso la virago assassina, avevo scorto la ragazzetta dagli occhi blu, quel piccolo riso spaventato, solitario, sperduto sulle tragiche labbra. Mi diede un tuffo nel sangue. Come 1.000 spilli le lacrime mi punsero gli occhi. Ella se ne avvide e impallidì. Poi sedette e inconsciamente si mise nell'atteggiamento stesso della mite suora, le mani congiunte nel grembo, le palpebre abbassate, e per un pezzo vi fu silenzio. Ho letto le vostre memorie, dissi infine. Le mie memorie? Non ricordo di averne scritte. E la voce si rifece aspra e lo sguardo tagliente come una lama d'acciaio. Le scriveste nelle carceri di Venezia, a matita, su un quaderno di scuola. Può darsi. E Maria Tarnowskaja sospirò, un sospiro lungo a piccoli intervalli staccati con una fila di brevi singulti. Era un'epoca di sogno, disse, poi soggiunse, ma tutta la mia vita credo sia un sogno. Tacque ancora, poi riprese, è un pensiero che mi è venuto da poco. Ma mi conforta assai. Io credo che mi sono addormentata un giorno quando ero ragazzina, nella mia casa a Otrada, forse nel giardino sull'altalena. Sovente mi addormentavo con un libro sull'altalena. E tra poco mi sveglierò. Verrà mia madre con uno scialletto bianco in testa a chiamarmi. Mura, Mura, dove sei? È ora del tè. C'è Vasili che ti cerca. Ed io balzerò giù dall'altalena e mi nasconderò nelle sue braccia e le dirò: Mamma, Dio mio, che sogno ho fatto! Una storia lunga, spaventosa, grottesca. Avevo sposato Vasili, che era cattivo e infame. Ma pensa, mamma, Vasili infame. Poi avevo ucciso tanta gente, ero in prigione. Ma pensa, in prigione, in Italia, dove non si va che in viaggio di nozze. Oh, che sogno! E la mamma riderà, lisciandomi i capelli, ed entreremo insieme a braccetto. Sempre andiamo a braccetto come sposi, la mamma ed io, a prendere il tè con Olga e Vasili. Perché fate quella faccia? Avete l'aria di voler piangere, voi non credete che sia un sogno? La suora invece dice di sì. La suora alzò i miti occhi e mi guardò senza che le sue labbra cessassero di muovere nella blanda consueta preghiera. Maria Tarnowskaja continuò guardandomi fisso in volto. Voi invece credete che possa essere vero tutto questo? Che veramente io possa essere vestita così? La voce le si smorzò, poi riprese, rauca e convulsa. E volete credere che veramente siano tutti morti? Il piccolo Pietro, Bozevski, Stahl, mia madre, Kamarowski? Ebbe un risolino convulso. Si direbbe l'Amleto. Vi ricordate nell'Amleto come muoiono tutti? Uno di qua, uno di là, uno dietro la tenda, uno in ginocchio, annegati, sgozzati, strozzati, accoltellati. E a che folle idea! Ed ella rise, stridula e allucinata. Quando mi sveglio, tacque improvvisamente. Povera Mura, dissi, chiamandola col tenero appellativo russo e toccandole lievemente la mano. Ella mi guardò sbigottita. Poi si mise a sussurrare e quel sussurro affrettato mi mandava dei brividi per la schiena. Chi sei? Sei la Olga? Io ho nella testa un carosello che gira e gira e gira e non lo posso fermare. E sono anch'io sul carosello. Io giro e giro e giro e non mi fermo mai. Già, non mi hanno lasciata mai fermare. Sempre, sempre, sempre dovevo partire, viaggiare, ripartire. La suora si alzò e le venne vicino. Non pensateci, disse. Questo è l'ultimo viaggio, poi riposerete. E le posò la mano sulla spalla. Ma Maria Tarnowskaja mi guardava. Voglio svegliarmi, disse con un singhiozzo. Svegliarmi e raccontare il sogno. E a me. Nelle lunghe giornate di quel dolce mese d'aprile, così lo raccontò. Dove comincio? Ah sì, là dove mi sono addormentata sull'altalena, nel nostro giardino. Faceva caldo, quasi come qui. Io avevo compiuto in quel giorno i 16 anni e la mamma stessa, con molta solennità, in presenza del babbo e della sorella, mi aveva rialzata e puntata in cima al capo la rosseggiante capellatura, non più le lunghe trecce per le spalle. Bisogna che tu sembri una signorina, sospirò la mamma. Sebbene ancora non lo sia. Ma sì, lo sono, dissi io, che lo ero così da poco da non comprendere l'allusione della mamma. No, no. E la mamma scosse il capo. Pallidina mia. E mi carezzò le guance, guardandomi con ansia dolce. Io subito. Corsi in giardino, molto superba del mio elmetto di chiome color di rame, e sull'altalena dondolavo la testa in qua e in là, sentendomi la nuca fresca e scoperta. Vasili mi avrebbe veduta così. Ma le forcelline pesavano, mi tiravano un capello qui, un capello lì, mi infastidivano. Fermai l'altalena e a testa china, in un attimo avevo tolto e gettato in terra tutte le forcelline. L'elmetto di rame si rallentò, si sciolse, mi cadde come piombo d'oro fino alla cintola. Saltai in piedi sull'altalena e mi lanciai a larghi voli nell'aria chiara. Ah, com'era bello! Sentivo i miei capelli dietro a me tesi nel vento come una bandiera e nello slancio del ritorno mi turbinavano dinanzi e tutto intorno al capo come una folle ombrella di luce. Io ridevo e cantavo forte, tutta sola, quando ecco, in fondo al viale, comparve Vasili con mio cugino Trubetskoi. Venivano a braccetto verso di me, fumavano sigarette e mi guardavano. Avrei voluto saltar giù e scappar via, ma l'altalena volava, non potevo fermarla subito. Quei due uomini mi guardavano come nessuno mi aveva guardata mai. Io mi sentivo salire una vampa al viso. Improvvisamente, per un istinto più forte di me, lasciai le corde e mi coprii la faccia con le mani. Sentii un urlo, forse ero io, poi tutto turbinò. Vidi per un istante il viale di ghiaia levarsi dritto davanti a me, come per battermi la fronte, poi sprofondò e qualche cosa mi urtò nella nuca, e poi non ricordo più nulla. 3. Vedo come attraverso una nebbia celeste i giorni che seguirono. Mi vedo in poltrona, la mamma è seduta accanto a me col suo lavoro ad uncinetto di lana gialla. È strano come quella lana gialla mi fa orrore, mi fa male. Ma non so come dirlo, non so come parlare. Ho un dolore. Ho un dolore lancinante nella nuca. Poi vedo arrivare Vasili che sorride. Ha in mano un'enorme gabbia. Olga lo segue tutta ridente. Eccotelo, mi dice Vasili con aria trionfante e depone la gabbia vicino a me. Dentro vedo un enorme pappagallo grigio e rosa, una bestia orribile con la lingua nera. Perché mi portate delle cose che mi fanno paura? E mi metto a piangere. Tutti si guardano sbigottiti. La mamma si china su di me. Cara, hai pur detto ieri che volevi un pappagallo. Vasili è andato fino a Mosca a comprartelo. Non è vero, non è vero che l'ho detto. Portatelo via che mi fa paura. E anche la lana gialla. Io mi odo piangere forte e tutto sparisce. Pappagallo, Vasili, lana gialla, Olga. Solo rimane il viso triste e perplesso di mia madre, bianco e costante sopra di me come una pallida veilleuse. Quando scendo per la prima volta a colazione, mio padre mi aspetta, ritto e solenne, in fondo allo scalone. Mi offre con grande pompa il braccio e mi conduce al mio posto, dove sono tanti fiori tutti intorno al mio piatto. Io sono molto felice. Mi par d'essere una principessa, esclamo battendo le mani. Tutti ridono e mio padre risponde con solennità: Non dipende che da te. Il principe Ivan ha domandato la tua mano. Ivan Trubetskoi? Chiedo e non ho più voglia di ridere. Già, e anche Katerinovic, salta su a dire Olga, e mi pare che sia pallida e che abbia una piega amara sulle labbra. Quanta gente, dico io. E getto uno sguardo su mia madre che tiene gli occhi fissi sul suo piatto. Poi, come per scherzo, soggiungo: Nessun altro? Cade un cupo silenzio. Mio padre aggrotta le ciglia, ma la mamma ha alzato un istante gli occhi e mi ha guardata. Nel lampo cilestrino di quelle care pupille ho visto la mia felicità. Ed Olga sta dicendo: Sì, ti ha chiesta in sposa anche Vasili. Pare che si siano tutte e tre dati la parola. Vasili, Vasili, Vasili! Il nome mi suona come una fanfara. Sarò la moglie di Vasili? Sarò la contessa Tarnovskaya? Sarò la donna più felice di tutta questa terra piena di felicità e tutte le altre povere donne al mondo che non possono essere spose di Vasili mi invidieranno. Io passerò al suo braccio attraverso la vita, beata dalla sua bellezza, protetta dalla sua forza, chiusa al suo petto. Le bufere passeranno sopra di me e nessun dolore al mondo mi potrà toccare. Spero che sceglierai Trubetskoi, disse mio padre gravemente. Oppure Vasili, dice Olga con uno scintillio negli occhi. Io salto su e l'abbraccio. Ti prometto che non sceglierò Katerinovic. Le sussurro baciandole la piccola orecchia annidata sotto i ricci castani. Quello te lo sposerai tu. E così ha fatto. Io sfioro con la mano il braccio di mia madre e sento che trema tutta, povera piccola mamma, nervosa. Poi mi avvicino a mio padre che tiene i gravi occhi fissi su di me. Gli bacio la fronte e gli dico: Babbo mio. Se vuoi la tua mura felice, lascia che sposi Vasili. Mai! Grida mio padre, batte col pugno sulla tavola. L'anima dell'antico O'Rourke, il nostro demoniaco antenato irlandese che ci spaventa tutti, si è ridestata in lui. Io però rido e lo torno a baciare. Se non sposo Vasili, muoio. E tu non essere il terribile O'Rourke, che fai paura a mamma. Ma papà fa più che mai l'O'Rourke. E la mamma ha paura, siede, rigida, bianca come la carta, con gli occhi girati all'insù, le pupille celesti paiono due piccole mezzelune pallide. Subito tutti sono intorno a lei a soccorrerla, ad aprirle la veste, a farle vento. Io non aiuto, tremo e il dolore alla nuca mi torna forte. E penso che mio padre è cattivo e io sposerò Vasili e porterò via la mamma con me e papà non lo vedremo che una volta l'anno a Natale. E ho sposato Vasili. Ho finto di avere tante convulsioni che la mamma si è spaventata sempre più e mi ha aiutata a fuggire con lui. Dico che ho finto? Non lo so. Cominciavo certo col fingere, mi dicevo adesso mi faccio venire le convulsioni. E poi non potevo più fermarmi. I denti che avevo stretti apposta non potevo più disgiungerli. Le mani che avevo serrate volontariamente non si disserravano più. Le unghie mi si conficcavano nelle palme e vedevo il sangue colarmi giù per i polsi senza poter aprire né distendere le dita. Il dottor Orlov, corso da Kiev, crollava il capo. Qui minaccia l'epilessia e conseguenza della caduta dall'altalena. No, no, no, gridavo io, non è la caduta, è Vasili. La mamma tremava e piangeva. Come da piccoli siamo terribili e feroci con le nostre mamme, anche adorandole, come le torturiamo. Oh, com'è tragico non comprendere questo che è troppo tardi e non poter più, mai più, chiedere perdono né confortarle. Sposai Vasili. Mio padre, più che mai O'Rourke, mi respinse subito, non volle né abbracciarmi né perdonarmi. Io me ne disperai. Non badare a quel noioso uomo, diceva Vasili, seccato e impaziente. Mia madre piangeva, dicendo a Vasili: Badate, ve l'ho data perché non muoia, ma non dovrebbe ancora essere moglie di nessuno, non è che una povera bambina. Non so se mi comprendete, ricordatevi che non è ancora una donna, è una bambina. Sì, diceva Vasili dandole poco ascolto. Le tirerò le orecchie se sarà cattiva. E se sono savia? Domandavo io, alzando la faccia estasiata a guardarlo nei radiosi occhi insolenti. Se sarai savia, confetti e zuccherini, diceva lui ridendo con tanti denti bianchi. Ed io, prometti di cantare per me sempre e per me soltanto la mia romanza prediletta, patria lontana o mia steppa selvaggia? Per te sempre, per te soltanto, disse Vasili con ostentata solennità. Vieni, vieni, Maria Tarnovskaya. E si trasse sotto al braccio la mia mano su cui brillava nuovissimo l'anello nuziale. Maria Tarnovskaya, che bel nome! Avrei voluto che il mondo intero vedendomi dicesse: Ecco, ecco Maria Tarnovskaya, felice e benedetta fra le donne. 4. La sera delle nozze nell'hotel a Kharkov, io feci chiamare la cameriera. Quella bussò, poi entrò, disinvolta e sfrontatella, e dopo avermi squadrata da capo a piedi, lanciò un'occhiata a Vasili. Questi sedeva in poltrona e accendeva una sigaretta. Come ti chiami? Chiese alla ragazza. Rosalia per servirla, disse lei. Sta bene, Rosalia, disse il mio sposo. Questa sera faremo a meno di te. Non dico che tra un paio di giorni. La ragazza rise, fece un piccolo inchino e uscì, chiudendo la porta. Ma chi mi farà le trecce? Chiesi io, che mi sentivo tutta sconvolta. Ah, non importano le trecce, disse Vasili. Sei noiosa. E mi baciò. Poi stette a sedere, guardandomi. E fumando la sigaretta mentre io giravo per la stanza assai imbarazzata. Stavo per inginocchiarmi come al solito accanto al letto per dire le orazioni, quando egli mi afferrò il polso e lo strinse forte, così forte che mi fece male. Non far così, dissi tentando di svincolarmi. E tu che cosa fai? Disse lui e mi pareva che avesse la voce rauca. Ma le mie preghiere, dissi. Non importano le tue preghiere, disse lui. Sei noiosa, sei veramente noiosa. Ma io volli dirle anche quella sera, le preghiere avevano sempre avuto una parte assai importante nella nostra giornata. Olga ed io le dicevamo mattina e sera ad alta voce, all'unisono. Ma ora Olga era lontana e dovevo dirle da me, così le dissi piano. Ammetto che erano molte preghiere e lunghe, erano poi in tutte le lingue perché ogni bon o governante che veniva a Otrada ce ne aveva insegnate delle nuove. Olga ed io temevamo che a lasciarne fuori qualcuna iddio si sarebbe offeso. Eravamo anche incerte riguardo a quale lingua egli comprendesse meglio. Stavo per l'appunto dicendo quella in inglese. Ora, oh buon Dio, che mi sposo, che mi poso a dormire, abbi tu cura di me, se in questa notte dovessi morire. Olga ed io a questo punto interpolavamo sempre una brevissima preghiera inventata da noi. Ti prego, buon Dio, di non farci morire niente affatto questa notte. Amen. Chiama il mio spirito a te, proseguiva la preghiera. Insomma, hai finito? Disse Vassili mettendomi un braccio intorno al collo. Sei noiosa, sei straordinariamente noiosa. Sei noiosa. Fu questo il ritornello perpetuo delle nostre giornate. Egli mi trovava sempre noiosa. Forse lo ero. A 17 anni è facile essere noiose, soprattutto per gli estranei. In casa mia mi avevano trovata spiritosa e intelligente, ma per Vassili non ero che noiosa. Io lo vedevo pizzicare le guance di Rosalia, la cameriera. E piangevo? Sei noiosa, diceva lui. Gli sentivo sulla giacca dei profumi di muschio e di patchouli e osavo chiedergliene conto. Sei insopportabilmente noiosa, diceva lui. Usciva portando con sé la musica della steppa selvaggia e stava fuori tutta notte. Quando tornava all'indomani, brutto, smunto, con le labbra disseccate e gli occhi rossi, e io gli singhiozzava sul petto la mia angoscia. Noiosa, sbadigliava lui, respingendomi. E un giorno seppi che da una baronessa tedesca gli aveva avuto una bambina. Davanti al parossismo della mia disperazione gli si inasprì. Ma poiché da te non potrò mai averne, gridò, noiosa che sei, non puoi neppure avere figli. Io allibì. Ma come? Ma perché? Io non potrei mai. No, no, urlò lui con la bella bocca aperta e tonda come quelle delle furie sulle pareti del suo castello. Tu non avrai mai figli, sei anormale, non sei una donna, anche tua madre l'ha detto. E nello sguardo che mi sfregiò il gracile corpo come una coltellata, vidi che aveva orrore di me e caddi, priva di sensi, al suolo. Allora egli si spaventò, chiamò tutti, fece venire tutto il personale dell'hotel, mandò a chiamare tutte le signore che conosceva in Kharkov, ed erano tante, perché mi curassero, mi consolassero, mi distraessero. Quando ripresi i sensi, la stanza era piena di femmine. Rosalia, due giovani boeme nostre vicine, la baronessa tedesca, un'attrice del Teatro Imperiale e la piccola Giulia Terleskaja, la nuovissima, la più recente, questa tra le amanti di mio marito. Tutte queste vezzose teste femmine erano chine sopra il mio capezzale, mentre Vasili, a ginocchi col capo sprofondato nella coltre, singhiozzava: Salvatela, è morta, io l'ho uccisa. Stesi una mano a toccargli i capelli ed egli alzò il viso, rigato di lacrime. Sono viva, dissi io piano. Ed egli si precipitò su di me e mi baciò la bocca. Le sue donne gli facevano semicerchio intorno, tutte snelle e decorative, parevano un arazzo gaio. Egli mi diceva: Ti amo, mi piaci così, come sei, non ti vorrei diversa, non ti vorrei uguale a tutte le altre. E soggiungeva in francese, guardando la Terleskaja: Se tre rigolò d'avere una moglie che non è una donna. Io nascosi singhiozzando il volto nel guanciale e la Terleskaja, certo più buona di tutte, si chinò su me e mi confortò. Non gli date retta, disse. Ha forse bevuto un pochino. La porta si aprì. Un dottore chiamato dal direttore dell'hotel entrava rapido e deciso e al suo apparire le donne fuggirono come tante passerette spaurite. Naturalmente condussero via anche Vasili. Al buon vecchio dottore confidai il segreto scoperto e non compreso che mi bruciava il cuore. Dottore, dottore, voglio avere dei bambini. Ma sì, ne avrete, disse il vecchio dottore ridendo e confortandomi. Non avete nulla da normale, siete un po' anemica, nient'altro. E scarabocchiò delle ricette sul suo taccuino. Ecco, prendete tutto questo e andrete a Franzensbad e tra un anno mi chiamerete a fare da padrino. Presi tutto ciò che mi aveva prescritto, ma non andai a Franzensbad. Vasili voleva andare a Pietroburgo e mi ci condusse. Là, fin dalla prima sera, venne molta gente a trovarlo. Tra gli altri ricordo il granduca Costantino d'Oldenburgo, che dopo mille cortesie a me lo trasse in disparte e gli parlò a bassa voce. Udì il nome di un famoso restaurant e le parole: una cena allegra, gli Zigan, poi dei nomi d'uomini e di donne a me ignoti, e risero. Poi il granduca tornò a me e si chinò cerimoniosamente a baciarmi la mano. Ebbè, ebbi per un attimo l'istinto convulso di afferrare quelle ben spazzolate chiome e di gridargli: Malvagio uomo, perché mi porti via mio marito? Ma le convenienze sociali prevalsero su quell'istinto elementare E quando il Granduca sollevò il patrizio capo, mi trovò tutta sorrisi. Incantevole creatura, disse egli a Vasili. Pare un angelo del Botticelli. Dunque, stasera alle 10 all'Ermitage. E alle 10 meno un quarto anche Vasili, agghindato, impomatato, profumato, mi baciava la mano e se ne andava. E io rimasi sola. Sola nel grande salotto pieno di specchi, di lumi e di tende, a che cosa serviva essere un'incantevole creatura? A che cosa serviva somigliare a un angelo del Botticelli?